Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Onestà, onestà, onestà, onestà, onestà, onestà, onestà, onestà, onestà. Non cadere nel baratro, perché lei non vuole lasciare il suo posto. Lei non si vuole muovere dalla sua poltrona. Lei vuole rimanere lì. Diciamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un po' di fiatone perché c'era stato un intoppo, questa è la seduta piuttosto movimentata che c'è stata oggi al Consiglio Comunale di Quarto. Sapete che nell'occhio del ciclone il comune vicino Napoli, ne abbiamo parlato anche con la sindaca in questi giorni qui a Effetto Notte, Rosa Capuozzo, perché secondo un'inchiesta ci sarebbero state presunte infiltrazioni camorristiche, ci sarebbe stato un voto di scambio e quindi le opposizioni che partono all'attacco, come avete sentito, dicono che la sindaca è attaccata alla poltrona, non se ne vuole andare, onestà, onestà, continuavano a inneggiare. Oggi la sindaca si è vista anche in lacrime, insomma si è dovuta allontanare a un certo punto. Parleremo di questo perché, come sempre, torniamo il venerdì qui a Effetto Notte a fare un bilancio della politica della settimana, il meglio o il peggio a seconda dei punti di vista. Gli argomenti sono molti, questo, ma anche adesso, diciamo, il tema che sta tenendo banco è soprattutto questo del proposta del governo di abolire il reato di clandestinità, quello che era stato varato circa 7 anni fa dal governo Berlusconi. Però le opposizioni subito sono insorte, in particolare, diciamo, la Lega e Alfano, che è, diciamo, alleato naturalmente di maggioranza del PD, del governo Renzi, e il leader del nuovo centrodestra a un certo punto nel pomeriggio frenato, ha detto no all'abrogazione. In questo momento daremmo un'immagine negativa. Che cosa ne pensate? Effettivamente sarebbe così? Sarebbe una percezione da parte dell'opinione pubblica negativa se il governo decidesse in questo momento di abrogare il reato di clandestinità, proprio in questo momento, nel senso, dice Alfano, quelli che insomma sono detrattori di questa proposta, nel momento di grande tensione, di paura di terrorismo, ma anche e soprattutto in seguito a quello che è successo a Colonia. Ci sono ulteriori sviluppi relativamente ai fatti di Colonia, delle molestie sessuali di massa che ci sono state a Capodanno contro le donne da parte soprattutto di cittadini extracomunitari. Anche di questo torneremo a parlare. Questa sera ci collegheremo direttamente con la città tedesca, perché è un fatto importante. È che il capo della polizia, prima la notizia, si è dimesso, in realtà è stato silurato, l'hanno prepensionato, diciamo, l'hanno accompagnato verso il pensionamento in modo piuttosto sollecito. Per le vostre opinioni, anche questa sera, come sempre, tutte le sere qui Effetto Notte, mentre io vi racconto prima il riassunto della giornata e poi comincio a entrare nel cuore di alcuni argomenti tra i più importanti con gli ospiti, voi potete esprimere le vostre opinioni, vi dicevo, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso gli SMS al 349-238-6666. Potete continuare a discutere del tema di Colonia, visto che appunto, vi dicevo, mi soffermerò ancora lungamente, oppure rispondere anche a questo commento che ha fatto Alfano frenando sull'abrogazione del reato di clandestinità. Davvero voi pensate che se fosse abolito, insomma, sarebbe un grosso problema in Italia e soprattutto l'opinione pubblica, quindi noi, voi, sarebbe negativamente impressionata? Partiamo con la giornata. Egitto, 3 uomini armati hanno assaltato un resort a Hurghada sulla costa egiziana del Mar Rosso, uccisi 2 assalitori, feriti alcuni turisti. E questa è la notizia che è arrivata poco fa. Messico ha arrestato il Chapo Guzman, il signore della droga, 7 mesi dopo la sua fuga da una prigione di massima sicurezza. Le molestie sessuali di massa a Colonia, silurato il capo della polizia, la Merkel pensa a un inasprimento sulle espulsioni. Bruxelles ha trovato il covo di Salah, lì costruite le cinture bomba, timore per attentati in Belgio. Reato di clandestinità, il governo Renzi si prepara ad abolirlo, ma la Lega attacca e Alfano si dice contrario perché in questo momento trasmetterebbe un'immagine negativa e sulle unioni civili il PD cerca una terza via. Il caso del comune di Quarto, seduta agitata oggi del Consiglio Comunale, Grillo dice il voto delle mafie ci fa schifo. Economia, i prezzi delle case ripartono dopo 4 anni, il potere d'acquisto sale al top dal 2007 e il ministro Padoan dice che l'Italia ha le carte in regola per la flessibilità. Il delitto di Iara, rissa verbale tra le parti oggi al processo, udienza sospesa, e Massimo Bossetti, unico imputato per l'omicidio, dal carcere scrive una lettera ai genitori della ragazza. Rivoluzione nel calcio, sia la videotecnologia in campo. E partiamo naturalmente da una brutta notizia, anche se per il momento sembra abbastanza contenuta la vicenda. Viene dall'Egitto questa notizia: tre uomini armati hanno condotto un attacco all'hotel Bella Vista in una resorta Hurghada, una delle località classiche del turismo internazionale sulla costa egiziana del Mar Rosso. Due di loro sarebbero stati uccisi dalle forze dell'ordine, ma maggiori dettagli ce li dà Roberta Pellegata. Buonasera Roberta. Buonasera, sì, le notizie sono ancora frammentarie, ma senz'altro oggi c'è stato un altro tentativo da parte dei terroristi di far strage in Africa tra i turisti, così come purtroppo era accaduto nel giugno scorso in Tunisia. Come dicevi, questa volta ad essere attaccato un hotel di Hurghada in Egitto, una delle località del Mar Rosso più amate, l'albergo è appunto il Bella Vista ed è un albergo centralissimo. A quanto si sa, tre uomini armati con in mano bandiere dell'ISIS sono arrivati dal mare, quindi come è successo in Tunisia, e uno di loro aveva una cintura esplosiva neutralizzata però dalla polizia, perché l'attacco infatti è stato, a quanto si sa, respinto. L'agenzia ufficiale egiziana EMENA ha confermato poco fa quanto diffuso dall'Arabia, e cioè che le forze di sicurezza hanno ucciso tutti e tre gli assalitori in realtà, che però sono riusciti, stando alle prime notizie, a ferire due turisti. Sarebbero due donne, una tedesca e una danese, ma è ancora tutto da confermare. Intanto la Farnesina già si è attivata per capire se vi siano italiani nel resort colpito, quindi per altri dettagli dobbiamo riaggiornarci. È chiaro che bisogna aspettare ancora un po' di tempo. Sì, allora, da segnalare che proprio oggi l'ISIS ha rivendicato l'attacco fatto ieri ad un pullman di turisti al Cairo vicino alle piramidi, un bus preso di mira da colpi d'arma da fuoco, un attacco che per fortuna non ha portato ad alcun ferimento. Grazie Roberta Pellegata, e come dicevamo appunto, se vi sono man mano sviluppi arriveranno notizie più dettagliate, insomma naturalmente seguite Effetto Notte fino alle 22. E dal Messico arriva la notizia dell'arresto, 7 mesi dopo la sua fuga da una prigione di massima sicurezza, di El Chapo Guzman, capo del cartello del narcotraffico di Sinaloa. Missione compiuta, lo abbiamo preso, così ha scritto su Twitter il presidente messicano Peña Nieto. Il signore della droga era fuggito da un altro carcere di massima sicurezza nel 2001, evidentemente una facilità di fuga, e nascondendosi per anni nelle aspre montagne dello stato di Sinaloa. E siamo alle molestie sessuali di massa. A Colonia è stato silurato il capo della polizia, arrestati intanto una trentina di uomini, mentre la cancelliera Merkel sta pensando a un inasprimento sulle espulsioni. Una vicenda questa che sta diventando un caso europeo, nel senso che si sono avute anche più segnalazioni anche a Salisburgo, per esempio in Austria, anche in Svezia, e un caso europeo anche da un punto di vista del dibattito politico, appunto anche la questione del reato di clandestinità in Italia. Ne parleremo tra poco collegandoci direttamente con Colonia, ma intanto sentiamo cosa dice Roedger Tust, poliziotto della Criminal Pol di Colonia, intervistato da Raffaella Calandra. Un capo della polizia è una persona politica, e quando il ministro dice non c'è fiducia, lui dice al questore ciao bello. Nessuno sapeva che vengono 1000 persone, molto aggressivo, si pensa che si hanno telefonato prima, hanno fatto un incontro su Facebook per avere un incontro a Colonia. Non credo che è successo un zufall, si dice. Un caso, una coincidenza. Non credo. Secondo lei, fatti del genere possono ripetersi anche in altri paesi che hanno avuto un aumento così forte di migranti, come l'Italia, ad esempio? Sicuro, può succedere dappertutto. Intanto a Bruxelles, dove resta alta l'allerta terrorismo, è stato trovato il covo del fuggitivo delle stragi di Parigi. L'appartamento di Bruxelles, dove l'unico attentatore di Parigi sopravvissuto e ancora a piede libero, Salah Abdeslam, si è rifugiato dopo la strage del 13 novembre, era quello usato dai terroristi per fabbricare esplosivi. All'interno del covo, che si trova nel quartiere di Scharbeck, in una perquisizione del dicembre scorso, sono state trovate tracce di esplosivo, 3 cinture cucite a mano e appunto un'impronta digitale di Salah Abdeslam. L'appartamento era stato preso in affitto da un sospetto, ora agli arresti. E quanto ha riferito oggi la procura di Bruxelles, città dove la tensione rimane molto alta. Il coordinamento dell'antiterrorismo belga ha deciso di mantenere a livello 3 su una scala di 4 l'allerta nel paese a causa di una minaccia possibile e verosimile. A riguardo, il procuratore federale belga è stato più preciso, rivelando in un'intervista che si teme un attentato il 15 gennaio, ad un anno esatto dall'uccisione dei due terroristi che preparavano attentati a Verviers. Teniamo conto di questa data simbolica, ha sottolineato il procuratore, perché i terroristi cercano sempre simboli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora in Italia, dove il governo, vi dicevo, è pronto a cancellare con un decreto legge il reato di clandestinità, il dibattito però è molto acceso, con il leader del nuovo centrodestra Alfano, che dice che in questo momento sarebbe un danno d'immagine, ci sarebbe una percezione negativa da parte dell'opinione pubblica. E altro nodo da sciogliere nel dibattito politico restano le unioni civili, in particolare l'adozione del figlio del partner, la cosiddetta stepchild adoption. Pare che si vada verso una decisione per la libertà di coscienza in Parlamento, però di questo poi parleremo ampiamente, così come del caso del comune di Quarto. Vi dicevo che c'è stata una seduta agitata oggi al Consiglio Comunale con la sindaca Capuozzo in lacrime per la tensione, che ha chiesto di non strumentalizzare questa vicenda, mentre Grillo dice il voto della camorra, delle mafie, a noi ci fa schifo. Anche su questo nel bilancio poi della politica della settimana torneremo a parlare. Siamo intanto all'economia col ministro Padoan al TG5, che dice che l'Italia ha le carte in regola per la flessibilità. L'Italia chiede la flessibilità che è prevista dalle regole europee, perché sta facendo le riforme strutturali, è impegnata negli investimenti a lungo termine, quindi per sostenere la crescita, e naturalmente, come molti altri paesi, ha sostenuto e sta sostenendo grossi sforzi per la gestione della questione degli immigrati. Quindi io sono convinto che l'Italia ha tutte le carte in regola per non solo ottenere le clausole di flessibilità, ma usarle al meglio, appunto, continuando nel suo programma di riforme e crescita. Quindi dati economici positivi, salgono i redditi e il potere d'acquisto delle famiglie e ripartono anche i prezzi delle case. Segnali positivi dall'Istat per le famiglie italiane: in crescita nel terzo trimestre del 2015 il reddito disponibile, più 1,5% sull'anno precedente, andamento simile anche per il potere d'acquisto, 1,3% sul 2014. Dati questi che si riflettono sulla spesa per consumi finali, 1,2% sui 12 mesi. Il maggior reddito disponibile, spiegano dall'Istat, influisce positivamente anche sui risparmi delle famiglie, 0,3 punti percentuali in un anno. Buone notizie quindi anche per i conti pubblici. La media dei primi tre trimestri 2015, il rapporto deficit-PIL ha fatto segnare infatti un più 2,9%, con un miglioramento di 0,4 punti sullo stesso periodo del 2014. Il lieve aumento invece della pressione fiscale pari al 41,4%. Vero e proprio boom, poi, secondo il Ministero dell'Economia, per le entrate tributarie, che nei primi 11 mesi del 2015 segnano un incremento del 9,2%. Cresce il gettito IVA, molto bene anche l'IRES, in calo le entrate dalla lotta all'evasione fiscale, aumentano i redditi, scende la disoccupazione, le riforme strutturali funzionano, commenta il ministro Padoan. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le quattro banche salvate dal governo. Oggi un nuovo incontro c'è stato, solo interlocutorio, a Roma, tra il management degli istituti e le delegazioni delle vittime del salvabanche. La Guardia di Finanza ha effettuato questa mattina perquisizioni in una quindicina di società che avevano ricevuto finanziamenti da Banca Etruria. E per la cronaca parliamo del delitto Iara, perché si sono talmente surriscaldati i toni oggi al processo per l'omicidio di Iara Gambirasio che la Presidente ha sospeso l'udienza. La decisione è avvenuta dopo un duro scambio verbale tra la difesa e la parte civile. E in più è arrivata la notizia anche che Massimo Bossetti, che è l'unico imputato per l'omicidio di Iara Gambirasio, dal carcere ha scritto una lettera ai genitori della ragazza. La lettera è in possesso di uno dei suoi difensori, il quale si è limitato a confermare, spiegando che la lettera sarà consegnata a Fulvio e Maura Gambirasio solo alla fine del dibattimento in corso a Bergamo. Editoria chiude l'agenzia di stampa che racconta le periferie del mondo. Dopo 18 anni si fermano i lanci della MISNA, la struttura di informazione gestita dagli ordini religiosi dei missionari. E poi un dato d'ascolto ottimo in TV per i dati record per il ritorno di Don Matteo. Ascolti quasi da mondiali di calcio, da festival di Sanremo, insomma, da grande evento. Lì è Don Matteo? Sì. Sapevo che era lei. Prima puntata della decima stagione, 9.677.000 spettatori per il primo episodio di Don Matteo 10 e 8.657.000 per il secondo, per un netto di 9,2 milioni. In termini di share fa una media di 35,4%, persino meglio delle stagioni precedenti. Due anni fa l'esordio di Don Matteo 9 segnò il 31%, quattro anni fa Don Matteo 8 fece alla prima puntata il 27%. Il risultato di Don Matteo 10 dimostra la forza della TV generalista, dice il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone. In un'epoca di palinsesti frammentati, di streaming on demand e TV via web, resistono sempre di più le grandi occasioni. E a questo punto Don Matteo è davvero tale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura una notizia di calcio, una rivoluzione nel calcio, perché per la prima volta l'organismo custode delle regole del calcio raccomanda alla FIFA di varare una sperimentazione, di sperimentare l'uso della videotecnology in campo a supporto degli arbitri nella prossima riunione del 4 e 6 marzo, dal 4 al 6 marzo. Direi che per il momento questo è il riassunto della giornata, come sempre poi cominceremo a entrare man mano nel cuore degli argomenti con i vari ospiti. Tra poco, dopo la viabilità, ci collegheremo con Colonia per aggiornarci su quello che sta avvenendo con le polemiche, con anche la cancelliera Merkel un po' in difficoltà per la sua politica d'accoglienza, e ancora più in difficoltà il capo della polizia, che in primo momento si è detto si è dimesso, in realtà è stato silurato. Ma cosa dicono i vostri messaggi intanto al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito per esempio della possibilità in Italia che ha ventilato il governo di abolire il reato di clandestinità? Vediamo un po'. Allora, dice un ascoltatore, ennesimo provvedimento distorsivo del Pinocchio Renzi, pensi a pagare i debiti della pubblica amministrazione, 80 miliardi di euro. E poi Erminio da Bergamo, in carcere ci deve andare chi commette reati rilevanti, a rimanerci, non possiamo intasare le carceri di migliaia di poveri diavoli. Poi M da Milano scrive, direi che la cosa migliore sarebbe fare un referendum per decidere se abrogare o non abrogare. Clotilde, sentire gli ipocriti di quello che una volta era il PD inneggiare all'onestà, a proposito evidentemente del caso di Quarto, mi disgusta, dice Onestà, la chiedo io l'usurpatore, tanto che ha da spiegare sui suoi contatti, non ultimo con l'Arabia Saudita, ma in realtà Clotilde con l'Arabia Saudita i contatti ce l'hanno un po' tutti, anche il principale alleato degli Stati Uniti nell'area, insomma. 349-238-6666 per quanto riguarda i vostri messaggi SMS, oppure potete scrivere comodamente le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, giusto la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, un ascoltatore scrive su WhatsApp, quello che leggo meno in questo momento WhatsApp perché vi dicevo sono caratteri molto piccoli, il reato di clandestinità non deve assolutamente essere abrogato, scrive questo ascoltatore. Poi ancora con i vostri messaggi tra la pagina Facebook e il 349-238-6666, Nicola dice, che senso ha l'attuale norma sul reato di clandestinità? No arresto, no fermo, solo una multa da 5-10 mila euro, sanzione fatta a gente nulla tenente. Così scrive Nicola. E poi Ernesto dice, sono d'accordo sull'abolizione del reato di clandestinità, ottima soluzione del problema, poi aboliamo la corruzione e l'evasione fiscale. Quindi ironicamente scrive Ernesto. Direi di adesso andare subito sulle notizie più importanti, non molti, non sono, cioè nel senso quelli che non hanno acceso la radio alle 21 precise per ascoltare Effetto Notte, ve lo ricordo quali sono le notizie più importanti per passare poi ad approfondire la prima. Dicevamo nelle ultime ore, questa sera è arrivato negli ultimi minuti, anzi un attacco, la notizia dell'attacco in Egitto a un hotel a Hurghada di turisti uccisi, tre assalitori che venivano dal mare. Secondo le prime ricostruzioni sono rimaste ferite due turiste, una tedesca e una danese, non si hanno per il momento altri dettagli. Intanto a Bruxelles è stato ritrovato il covo di Salah Abdeslam, uno degli stragisti di Parigi. E poi Colonia, identificati 18 profughi tra le 31 persone arrestate, fermate per i fatti di Capodanno, e la cancelliera Merkel chiede una verità. Intanto è stato fatto dimettere il capo della polizia, tra poco ne parleremo. Nodo clandestini per il governo, che vorrebbe abrogare il reato di clandestinità, ma Alfano, leader del nuovo centrodestra e alleato di governo di Renzi, dice no, non sono d'accordo su abolirlo. Salgono i redditi e il potere d'acquisto, ripartono spese e mattone in Italia. E poi rissa e lacrime nel comune di Quarto, al Consiglio Comunale la sindaca del Movimento 5 Stelle Capuozzo, che è stata ospite due giorni fa con di Effetto Notte, dice non bisogna strumentalizzare, mentre il PD intanto cerca anche la quadra sulle unioni civili, probabilmente ci sarà la libertà di coscienza sulla stepchild adoption. Colleghiamoci dunque subito con Colonia, dove c'è Daniela Nosari, che è giornalista di Radio Colonia, un programma radiofonico in lingua italiana del palinsesto di Funkhaus Europa, un canale dell'emittente radiotelevisiva pubblica VDR. Daniela, buonasera. Buonasera. E grazie di essere in collegamento, Daniela. Allora, tornando sulla vicenda delle molestie sessuali di massa contro le donne a Colonia, la notte di Capodanno, a una settimana da queste violenze contro centinaia di donne che hanno denunciato, la polizia tedesca ha fermato 31 sospetti, tra questi anche 18 profughi richiedenti asilo in Germania, e poche ore dopo, nel pomeriggio, è arrivata appunto la notizia, come vi dicevo, della sospensione del capo della polizia locale di Colonia, che ha 60 anni, che finora aveva detto non ho nessuna intenzione di mettermi, aveva negato ogni responsabilità, però pare l'abbiano spinto, se non sbaglio, Daniela Nosari, no, a andare in pensione praticamente. Sì. L'hanno sospeso, non è stata una sua decisione, lui voleva rimanere in carica proprio anche visto del carnevale, l'aveva dichiarato ancora ieri, si sentiva insomma di dover restare al suo posto in vista di questa grande manifestazione, e invece il ministro degli interni Ralf Jäger oggi l'ha sospeso, spiegando che questa misura è necessaria per ristabilire la fiducia dell'opinione pubblica nella polizia, quindi non è stata assolutamente una dimissione voluta, l'ha accettata, l'ha presa bene, diciamo, Albers, perché insomma ha riconosciuto il fatto che soprattutto la gestione delle informazioni in questi giorni successivi ai fatti è stata disastrosa, e questo che un po' tutti insomma criticano. Questo concordano. Daniela, infatti, in questo modo però qualcuno potrebbe pensare a un capro espiatorio il capo della polizia, in realtà parrebbe, le critiche ci sono state già dall'inizio, dell'inadeguatezza del numero delle persone, delle forze dell'ordine e anche dell'intervento, perché è sembrato quasi impossibile che davanti a, che nella piazza della stazione, che questa piazza mi pare sia tra la stazione e il Duomo, no, di Colonia, quindi una piazza importante vicino a due luoghi particolarmente sensibili in tempi di terrorismo, che non ci fosse un presidio adeguato, no? Sì, sì. È stata assolutamente la critica maggiore che è stata fatta in questi ultimi giorni, ci sono state anche testimonianze oculari che dicono che la polizia era assolutamente incapace di agire in qualche modo, allontanato dalle persone che poi sono ritornate più e più volte, addirittura prendendo in giro questi poliziotti, quindi c'era proprio questa situazione di anche affronto nei confronti della polizia. La polizia federale oggi ha ribadito che la presenza nella stazione era addirittura maggiore rispetto all'anno scorso e rispetto alle giornate normali, quindi la polizia ribadisce che il numero di poliziotti in sé sarebbe dovuto bastare, poi è successo quello che è successo, che non era prevedibile. Certo è che adesso cominciano ad arrivare voci dal mondo politico che chiedono non tanto leggi più severe, questo viene richiesto da Merkel, d'accordo con lei anche l'alleato socialdemocratico Gabriel, arriva da più voci questa richiesta, ma arrivano anche le voci che dicono no, le leggi ci sono ma mancano le forze di polizia. Questa è una nuova richiesta che è arrivata oggi per esempio dai Verdi, dal leader Cemal Özdemir. Daniela, tra l'altro intanto ci sono stati, dicevo, questi 31 fermati, no? Sono stati interrogati, alcuni di origine algerina, altri provenivano dal Marocco, dall'Iran, dalla Siria, c'era anche un cittadino tedesco e uno americano. In ogni caso 18 sono stati riconosciuti come i profughi richiedenti asilo, però mi sembra che per il momento le accuse non siano di reati sessuali? No, infatti questo volevo ricordarlo, finora si parla di aggressione, lesione e furto e nessuno di loro per ora è accusato di molestie sessuali, cioè non è stato identificato nessuno che chiaramente viene accusato di questo. Questo è anche interessante, cioè ci chiediamo se sia perché è più difficile dimostrare questo reato rispetto ad un furto, ad una lesione, questo si vedrà, si capirà nei prossimi giorni. Esatto, quello che dicevi sul discorso che siano richiedenti asilo, è chiaramente sì, questi arresti di oggi hanno ridato vigore alle richieste di espulsioni più facili, più veloci, però la politica tedesca oggi si è anche resa conto che soprattutto i richiedenti asilo sono protetti dalla Convenzione di Ginevra e quindi non è poi così facile espellere un richiedente asilo. Questo è stato un po' oggi in Germania il tema che ha dominato il dibattito pubblico. Ricordo tra l'altro appunto che già ieri la Slovacchia, e oggi l'ha ribadito il capo del governo, ha intenzione di chiudere i profughi musulmani dopo questo caso. Adesso vedremo insomma che cosa succederà a livello internazionale, europeo prima di tutto. Grazie tanto Daniela Nosari da Colonia. Grazie. Grazie. Grazie Daniela, buon lavoro. E mentre ci spostiamo sul bilancio della politica interna con il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, ritornato a noi. Fabrizio, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao e buon anno, Fabrizio. Senti, prima di passare diciamo alle cose molto interne, che idea ti sei fatto, così, se vuoi fare una battuta su questa vicenda, che poi è legata anche al dibattito in Italia? Una battuta rapidissima. Penso se succedeva in Italia. Altro che dimissioni del ministro, del responsabile della polizia locale. Avremmo chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio, insomma sarebbe stato veramente un caso politico strumentalizzato all'estremo, ma questa è la nostra politica che amplifica tutto, molto al di là anche delle vicende. La vicenda in questo caso devo dire è effettivamente molto grave e sulla quale tutti ci interroghiamo, perché un fenomeno del genere effettivamente cambia la prospettiva e non era mai successo in Europa finora. Senti Fabrizio, invece per quanto riguarda diciamo temi proprio prettamente interni, l'anno è appena iniziato, però già ci sono diciamo una pagina ricca di politica, di temi roventi. Due argomenti che nelle ultime ore stanno più agitando la maggioranza di governo sono la possibile abolizione, a proposito dell'emergenza immigrazione, appunto, del reato di clandestinità, e il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, sul quale addirittura oggi c'è stato un mini vertice tra Renzi, i capigruppo PD e la ministra Boschi. E altro tema che infuria, sul quale infuria la polemica, è quello del comune pentastellato di Quarto, vicino Napoli, no? Sul quale pende un'inchiesta per presunte infiltrazioni camorristiche, voto di scambio, inquinato, insomma. E partiamo allora proprio da questo, Fabrizio, perché da questa vicenda, dato che è appena scoppiata questa polemica con l'attacco soprattutto del PD al Movimento 5 Stelle, qui a effetto notte due giorni fa è stata ospite la sindaca di Quarto del Movimento 5 Stelle, Rosa Capuozzo, e se permetti riepilogo brevemente la vicenda per chi non la ricordasse, Fabrizio. C'è questa inchiesta del PM Woodcock, in particolare in questa inchiesta alcune intercettazioni telefoniche risalenti al 1° giugno scorso, cioè tra il primo e il secondo turno delle elezioni comunali di Quarto. Si sentono in queste intercettazioni telefoniche che un imprenditore in odore di camorra, questo Alfonso Cesarano, dà indicazioni di appoggiare al ballottaggio il candidato del Movimento 5 Stelle, per l'appunto Rosa Capuozzo, che poi viene effettivamente eletta, e dice in queste intercettazioni: adesso si deve portare a votare chiunque esso sia, anche le vecchie di 80 anni si devono portare là sopra e devono mettere la X sul Movimento 5 Stelle. Poi sempre Cesarano spiega, questo suo interlocutore, l'assessore poi glielo diamo noi praticamente, lui ci deve dare quello che noi abbiamo detto che ci deve dare, preso accordi con noi, dopo, così come l'abbiamo fatto salire, così lo facciamo cadere. E l'uomo di questo presunto accordo inconfessabile con la camorra sarebbe questo Giovanni De Robbio, anche lui Movimento 5 Stelle, che però è stato cacciato poi a dicembre dai 5 Stelle. De Robbio, in cambio di voti, avrebbe promesso a questo imprenditore Cesarano la gestione del campo sportivo, che è un po' anche al centro di questa inchiesta, e comunque di agevolarlo negli affari legati all'amministrazione comunale. E per riuscire nei suoi intenti sembra che abbia ricattato la sindaca, mostrandole delle foto dell'abitazione in cui lei stava, dicendole: guarda che sono frutto di abuso edilizio, quindi vedi insomma di non recalcitrare troppo sulle cose che ti chiedo. Però la sindaca Rosa Capuozzo, appunto, come dicevo, qui effetto notte, a proposito di questi presunti ricatti, ha risposto così. In realtà, se viste adesso, hanno un altro senso, però in quel momento erano pressioni politiche. È una visione completamente diversa dalla pressione politica. Poi si arriva all'altra questione, quella della casa e tutto, però anche in quel caso non ci sono minacce, quindi non si può denunciare una non minaccia. Sarebbe stata una calunnia da parte mia, un interessamento di questa persona che mi diceva che c'erano dei problemi, di non preoccuparsi, ma non c'è stata mai nessuna minaccia, quindi fondamentalmente non poteva esserci una denuncia da parte mia. Quindi ha risposto così, che non erano ricatti. E sulla questione dello stadio di Quarto, che dalle intercettazioni sarebbe stato nelle mire della camorra, sentiamo ancora la sindaca Capuozzo qui effetto notte. La gestione dello stadio è stata il primo motivo di scontro da parte mia nei confronti di Giovanni De Robbio, proprio perché lui aveva una visione che in quel momento per me era una visione politica, quindi erano pressioni politiche, dovuta al fatto che secondo lui la gestione da parte dei privati sarebbe stata più semplice per il comune. Quindi ci siamo mossi nella gestione dello stadio come comune. Infatti adesso lo stadio è comunale, non viene gestito da nessun privato. Lo scontro è stato così forte per quelle pressioni politiche che Giovanni De Robbio poi non è stato più Presidente del Consiglio. E si è allontanato man mano sempre di più dal programma, dalle linee, fino a uno scontro sempre più forte, fino all'espulsione. E poi, come si diceva dalle intercettazioni, insomma, quindi il comune di Quarto sarebbe stato sostenuto, la giunta 5 Stelle, dalla Camorra, ma Capuozzo, come ancora nel suo intervento dei giorni scorsi con Effetto Notte, sulla possibilità che ci sia un voto inquinato, ha replicato così. I voti della Camorra non li vuole nessuno, e ovviamente soprattutto non li vuole il Movimento 5 Stelle, ma noi abbiamo avuto un plebiscito, abbiamo avuto il 70% di voti, abbiamo avuto 10.000 voti. Quei voti non sono voti tutti di voti camorristi, noi siamo saliti con una percentuale altissima e fatta di persone oneste. Quindi non sono voti inquinati, comunque... non è un voto inquinato, dice quello che l'ha eletta. Assolutamente no. Ma se fosse in questa inchiesta dovesse emergere che effettivamente ci sono state infiltrazioni, che dei voti, molti voti sono stati portati dalla Camorra, lei sarebbe disposta a dimettersi, sindaca Capuozzo? Guardi, io non ho già risposto, però mi ho risposto anche prima, insomma. Siccome il voto è stato alto ed è stato forte ed è stato plebiscito, non accetto di dimettermi, perché in realtà non posso, per tutta la parte onesta, che mi ha votato. Insomma, poi il PD con Orfini in particolare ha attaccato dicendo: quando segnalai che a Ostia i clan inneggiavano il Movimento 5 Stelle, Di Maio disse che mi dovevano ricoverare. Lo disse da Quarto, dove la Camorra vota Movimento 5 Stelle. Anche Emanuele Fiano del PD ha chiesto di mettersi, insomma, la sindaca del Nuovo Centrodestra, anche Luigi Barone, dirigente campano del partito, ha detto: secondo la loro logica ipergiustizialista, Capuozzo dovrebbe dare le dimissioni, e così via. Tu che pensi di questa vicenda, Fabrizio Forché? Ma insomma, è chiaro che è anche partita un po' la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, e il PD giustamente, insomma, dal suo punto di vista cerca di, come dire, massimizzare l'utile di questa vicenda. Pensare che il Movimento 5 Stelle va a cercare anche in situazioni locali il voto camorrista, il voto delle organizzazioni mafiose, credo che nessuno lo pensi e nessuno possa pensarlo. Il Movimento 5 Stelle però deve fare molta attenzione, perché questa è la storia d'Italia. Le organizzazioni mafiose non sono, come dire, collegate a un'unica forza politica, non sono legate storicamente a una forza politica e non un'altra, ma si appoggiano via via al potere politico, individuando il potere politico nelle persone che sono più utili in quel momento. In un momento in cui il Movimento 5 Stelle è in forte ascesa in tutto il paese, ed è in forte ascesa soprattutto anche in molte aree meridionali, è evidente che è sottoposto a tentativi di infiltrazione, di strumentalizzazione, di appoggio da parte delle organizzazioni mafiose, che cercano, come dire, di trovare dei collegamenti con il potere emergente, con quello che oggi è un potere emergente in molte realtà locali e anche meridionali. Per cui, come dire, non sono loro a cercare l'appoggio del voto delle organizzazioni mafiose, le organizzazioni mafiose cercano loro, però questa è una certezza, e quindi loro devono reagire con la massima fermezza, e secondo me devono, appunto, con la massima trasparenza e la massima chiarezza in tutte le situazioni come questa di Quarto. È difficile, voglio dire, trincerarsi dietro il fatto di dire sono pressioni politiche. Beh sì, sono pressioni politiche quando riguardano il Movimento 5 Stelle, quando riguardano il PD invece sono pressioni di organizzazioni mafiose. Beh, insomma, questo non basta, secondo me, per fare chiarezza. Poi Grillo ha ribadito anche oggi sul suo blog: il voto delle mafie ci fa schifo, eccetera eccetera. Senti, invece, per passare agli altri due temi prima di salutarci, l'immigrazione, quindi il reato di clandestinità. Alfano si è oggi, che insomma fa parte del governo, a un certo punto nel pomeriggio ha fatto questa dichiarazione, ha detto non abroghiamo il reato di clandestinità, in questo momento sarebbe una mossa sbagliata perché darebbe all'opinione pubblica, insomma, un'impressione negativa. Ma guarda, oggi è stata una giornata interessante perché prima parlavamo di campagna elettorale in vista delle elezioni comunali. In realtà i due temi di cui ora appunto parliamo, che sono questo dell'immigrazione, del reato di clandestinità e quello delle Unioni civili, sono strettamente collegate a questo. Cioè, oggi c'è stata una forte tensione tra il PD e l'alleato di governo, il Nuovo Centrodestra, certo, su entrambi i temi. E la sensazione è che su entrambi i temi Renzi non abbia voglia, voglio dire, di alimentare i contrasti con il suo alleato di governo. E perlomeno oggi è una giornata di grande cautela da parte del PD e da parte del governo su entrambi i temi. Sul reato di immigrazione clandestina che stamattina sembrava la posizione del governo abbastanza netta verso il superamento del reato, oggi c'è una maggiore prudenza. Dopo l'uscita di Alfano, ma anche prima dell'uscita di Alfano, i segnali che arrivavano dal governo non erano più così netti come sembravano ieri sera. E anche sul fatto, insomma, Renzi è sembra determinato a non voler cambiare la legge, però ha parlato di libertà di coscienza sulla stepchild adoption, no? E quando si parla di libertà di coscienza, insomma, è chiaro che, come dire, la posizione del governo non è più così ferma come poteva sembrare qualche giorno fa, ma insomma, così ferma, è un provvedimento che slitta da vari mesi, anche proprio perché il governo fatica, diciamo, a trovare una posizione ferma su questi temi, ma insomma il passo di oggi di Renzi mi sembra significativo, insomma lasciare libertà di coscienza significa che il governo in qualche modo se ne lava le mani. È positivo secondo te o negativo che il governo si lavi le mani di un argomento come questo? Credo che dopo tanti anni di cui si discute di questo argomento un governo dovrebbe trovare la forza di trovare le mediazioni al suo interno e di portarlo con fermezza, dare un'indicazione ferma al Parlamento di come votare, è un tema di cui si parla da troppo tempo. Non dico non so qual è la soluzione, ma dico che un governo si deve prendere invece dopo tanti anni che si discute di questo tema la responsabilità di un voto chiaro in una direzione e in un'altra. E tu sei stato molto chiaro, come sempre. Grazie Fabrizio Forché. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao. Prima di lasciarci per questa breve pausa di ricreazione, ancora un'occhiata ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Anna, sulla questione del reato di clandestinità e su quello che è successo a Colonia, dice: uomini che scappano dagli orrori della guerra e da dittature, in branco, ubriachi, allupati, è un cocktail perfetto. Vanno espulsi, ma non generalizzerei, dice Anna. E poi Enrico: abolire il reato di clandestinità non serve a nulla, visto gli orientamenti e la lentezza della magistratura. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme tra pochissimo, Roberto Giordano sempre con voi. Cercheremo di capire anche in cosa consiste questo reato di clandestinità e perché, per esempio, molti magistrati, compreso anche il procuratore antimafia, anticorruzione, procuratore nazionale Franco Roberti, sia a favore di questa abolizione perché dice faciliterebbe le indagini. Poi capiremo tra pochissimo perché. Intanto stavo guardando i vostri messaggi, sempre anche sulla questione dell'abrogazione di questo reato di clandestinità, con Alberto che scrive: adesso si sveglia il ridicolo di Agrigento, prima ha fomentato l'invasione musulmana e ora, siccome la percezione del suo completo fallimento come uomo e come politico, possibile passibile di processo per altro tradimento della patria, adesso tenta di correre ai pari. Si riferisce penso ad Alfano. Vittorio scrive: a vedere il numero di arrivi da quando il reato è stato istituito sembrerebbe più un incentivo che un deterrente. Luca: ci deve essere un criterio che regoli l'accoglienza di persone che vogliono entrare e vivere in Italia, se no è caos. Sì, ho capito che l'Italia è già nel caos, ma dice puntini puntini. 349-238-6666 per i vostri messaggi, così come anche le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricapitolo le notizie più importanti della giornata. Intanto, Egitto, tre uomini armati hanno assaltato un resort a Hurghada sulla costa egiziana del Mar Rosso, uccisi tre assalitori, ferite due turiste. Per il momento non si hanno altri dettagli. Messico, arrestato il Chapo Guzman, il signore della droga, 7 mesi dopo la sua fuga da una prigione di massima sicurezza. Le molestie sessuali di massa a Colonia, ha silurato il capo della polizia. Intanto la cancelliera Merkel pensa a un inasprimento sulle espulsioni. Bruxelles, trovato il covo di Salah Abdeslam, lì sono state costruite le cinture bomba. Timore intanto per attentati in Belgio. Reato di clandestinità, il governo Renzi si prepara ad abolirlo, ma la Lega attacca, Alfano si dice contrario perché in questo momento trasmetterebbe un'immagine negativa, tra poco ne parliamo. Intanto sulle unioni civili il PD cerca una terza via. Il caso del comune di Quarto, seduta agitata oggi del Consiglio Comunale, Grillo dice il voto delle mafie ci fa schifo. Economia, i prezzi delle case ripartono dopo 4 anni, il potere d'acquisto sale al top dal 2007, Padoan dice che l'Italia ha le carte in regola per la flessibilità. Il delitto di Iara, rissa verbale tra le parti oggi al processo, quindi udienza sospesa. Intanto Bossetti, unico imputato per l'omicidio, dal carcere scrive una lettera ai genitori della ragazza. Rivoluzione nel calcio, sia la videotecnologia in campo. Vorrei farvi sentire appunto che cosa, come ho anticipato prima, che cosa ha detto il procuratore nazionale antimafia, anticorruzione Franco Roberti sul reato, sulla possibile abolizione del reato di clandestinità. Potendo interrogare i soggetti immigrati senza, diciamo, i limiti, le limitazioni derivanti dalla loro veste di indagati, potendoli sentire come persone informate sui fatti ed eventualmente come vittime del reato di traffico di esseri umani, sarebbe molto più facile per le indagini acquisire elementi per poter poi contrastare più efficacemente il reato. Però la Lega oggi ha attaccato subito su questa possibilità. Maroni, il presidente della Regione Lombardia, ha scritto: Renzi è impazzito, ci dobbiamo allora preparare all'invasione. Sentiamo anche il leader della Lega, Salvini. Se il governo andrà avanti e se il Parlamento ratificherà questa scelta suicida e anti-italiana del governo, noi penso che in non molto tempo 500.000 firme per cancellare questo regalo ai delinquenti le raccoglieremo. Allora adesso vorrei sapere l'opinione di Maurizio Carbone, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che saluto. Buonasera Carbone. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Intanto se ci spiega, spiega alle ascoltatrici e agli ascoltatori, in cosa consiste attualmente questo reato di clandestinità. Ma il reato di clandestinità oggi prevede una sanzione pecuniaria, un reato contravvenzionale per chi si introduce nel territorio dello Stato italiano da cittadino extracomunitario in maniera illegale. Come dicevo, è una sanzione pecuniaria che in questi anni ha dimostrato di non aver nessuna efficacia deterrente rispetto a un fenomeno così complesso come sono i fenomeni migratori, che richiederebbero evidentemente ben altri interventi e non una semplice criminalizzazione di questo fenomeno, di questi comportamenti. Carbone, tra l'altro, come lei afferma e riconferma, insomma, se si tratta appunto di una sanzione pecuniaria, considerando che o non hanno i soldi per pagarla oppure è quasi difficile, insomma, imporgli di pagarla, effettivamente ha un lato paradossale, diciamo, questo. È paradossale, in questi anni ha costretto gli uffici giudiziari, in particolare i tribunali di frontiera, mi riferisco soprattutto agli uffici giudiziari siciliani, a imbastire comunque numerosi procedimenti penali che non hanno portato sostanzialmente a nulla. Anche quando è stata applicata la sanzione, di fatto non è stata poi eseguita. E come spiegava poi il procuratore nazionale antimafia, in realtà questo reato ha costituito un ostacolo serio sul piano processuale ad individuare gli scafisti, che sono poi è l'obiettivo, questo poi principale dell'attività di indagine. Questo perché nel momento in cui la procura è costretta a iscrivere nel registro degli indagati il clandestino per il reato appunto di clandestinità, questo assume la veste di indagato, deve essere ascoltato in presenza di un difensore di ufficio e può avvalersi la facoltà di non rispondere, e anche quando risponde le sue dichiarazioni provenienti da un indagato hanno una veste processuale, un'efficacia probatoria minore rispetto alle dichiarazioni rese da un testimone. Insomma, alla fine una ipotesi criminosa che non solo non ha avuto nessun effetto deterrente come il numero dei flussi migratori dimostra, ma che addirittura costituisce un ostacolo alle indagini, un regalo verso gli scafisti. Carbone, c'è per esempio Tosi, sindaco di Verona e segretario del Movimento Fare, che dice: il reato di clandestinità, anziché cancellarlo, va ridefinito, perché così com'è la norma non è nemmeno un deterrente, abbiamo detto appunto questa sanzione da 5-10 mila euro. Dice: serve un provvedimento che renda effettivi i respingimenti e le espulsioni, meglio all'interno di una cornice europea. È d'accordo lei? Ma guardi, che ci sia questa abrogazione non elimina le espulsioni, come è stato chiarito anche dal governo. Quindi una cosa sono le espulsioni sul piano anche amministrativo. Ecco, perché molti cittadini hanno paura di questo, probabilmente, che allora c'è libero ingresso senza più controllo. Bisogna distinguere due piani: depenalizzare e quindi eliminare questo tipo di sanzione, che ripeto, anche se aumentata non avrebbe nessun effetto deterrente. Non dimentichiamo che si tratta di persone che rischiano anche la vita in questi tratti e non sono certo spaventati da un'ipotesi di sanzione penale in Italia, tra l'altro di difficile applicabilità. Si tratta di fare delle serie politiche migratorie, fare i respingimenti, fare a livello europeo le espulsioni, ma si tratta questo di tutte attività amministrative. Inutile ingolfare gli uffici giudiziari in procedimenti penali, non solo inutili ma, come abbiamo visto, addirittura dannosi per le indagini, rivolti all'obiettivo che è fondamentale, è quello di individuare gli scafisti, chi approfitta e sfrutta anche sul piano economico la tratta di uomini e donne. Quindi a questo punto appunto sarebbero colpiti gli scafisti e si riuscirebbe magari a contenere questo fenomeno della tratta, come diceva lei, Maurizio Carbone, e in più nulla toglie che chi commette dei reati sia perseguibile, no? Chi entra clandestinamente. Allora, non deve la sensazione è che si voglia utilizzare questo reato di clandestinità come norma bandiera ideologica, quando nei fatti, e ripeto, l'esperienza giudiziaria di questi anni lo ha ampiamente dimostrato, è una norma che è assolutamente inutile e inefficace. Allora eliminiamo le bandiere, andiamo con delle politiche migratorie e anche con perseguendo seriamente quelli che sono coloro che sfruttano e approfittano della tratta umana, quindi gli scafisti e le organizzazioni criminali che ci sono evidentemente dietro. Questa norma, ripeto, semplicemente di bandiera, invece in realtà è inutile, ed eliminarla non costituisce nessun arretramento o passo indietro, anzi consente di rafforzare l'attenzione anche giudiziaria su quelli che sono invece i reati più gravi da perseguire. La ringrazio, Maurizio Carbone, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Grazie, buona serata. Arrivederci, grazie. Grazie, fiabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo leggendo questo messaggio di un'ascoltatrice, ascoltatore su WhatsApp. Ma certo, leviamo il reato di clandestinità, serve sempre più gente che non si accontenti di 5 euro l'ora ma che lavori per 5 euro l'ora, quindi qua ne fanno questione di sfruttamento. Però mi pare che il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati abbia spiegato abbastanza bene in che cosa consista attualmente il reato di clandestinità e che il fatto che sia abrogato, poi vedremo come va nei prossimi giorni, perché il governo ha molto frenato dopo che Alfano ha detto di no, questo non leva che si possano naturalmente perseguire le persone italiane extracomunitarie, in questo caso, che compiano dei reati. 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte, dove per esempio leggo il messaggio di questo ascoltatore che si firma Qualcuno. Dice: beh, Alfano sfrutta una delle poche cartucce che gli rimangono, credo che l'immigrazione e la paura dell'immigrazione sia uno dei pochi punti su cui può prendere qualche voto. E poi Alessandro scrive: respingere è umanitario, questo è il suo messaggio. E poi qualcuno che invece parla di Amburgo, dopo vedrò di leggere questo messaggio, dove dice: sono stato negli anni 90 Amburgo, Berlino, anche se insomma sono anni un po' lontani, mentre molto vicino il fine settimana è anche il nostro Paolo Corazzon di Trebin Meteo, portatore sano di sole, anche se il freddo ormai l'inverno è qua tra noi. È qua le porte, sì, in qualche modo sì. Buonasera Roberta. Ciao, ma Paolo. Non per tutti, perché sarà un weekend con un'Italia divisa in due, addirittura ci saranno zone in cui sembrerà quasi primavera, altre invece in cui dobbiamo metterci il cuore in pace, sarà un weekend piuttosto uggioso, al nord in particolare pioggia domani un po' dappertutto, neve in montagna anche se a quote medio-alte oltre i 1000-1200 metri, quindi grandi disagi per la neve non ce ne saranno. Però appunto per il nord Italia giornata di domani alquanto grigia, arriveranno delle piogge anche sul versante tirrenico, quindi Toscana, e poi a fine giornata anche Lazio e Campania, ma sul medio Adriatico e al sud weekend più che discreto. Te pensa che in Sicilia si toccheranno i 20 gradi sia sabato che domenica, al sole quasi da stare a maniche corte, incredibile. Tu hai già preparato la maglietta, Paolo? In realtà a Milano sono e a Milano rimango, quindi ho preparato l'ombrello, altro che c'è poco da fare. Grazie Paolo, portatore sano di sole, comunque sia buon tempo a te. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Tra poco ci collegheremo, se possibile, visto che lui è alla più grande fiera internazionale di tecnologia, ci parla di quello che il futuro già ci porta nel presente, il nostro Enrico Pagliarini, però al momento è talmente tecnologico che il suo apparecchio non si collega. E allora do spazio ancora ai vostri messaggi con Mattia, per esempio, che dice che gli immigrati sono una risorsa per il nostro paese, e poi Gianni che dice: avete sbagliato, se fosse successo in Italia, quello che è successo a Colonia, visti i nostri politici, non si sarebbe dimesso nessuno, cari miei, dice Gianni, rispondendo al vice direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché, che aveva detto: se fosse successo nel nostro paese ci sarebbero stati guai grossi. E poi invece Pietro dice: ma la sindaca di Quarto, che si commuove, c'è o ci fa, quando dice di non strumentalizzare, non si è mai accorta dei suoi sodali grillini che strumentalizzano banalizzano tutto e di più. Mi viene in mente Nenni quando diceva che c'è sempre uno più puro che ti è pura, o Formica con la sua definizione della politica, sangue e merda. Se i grillini non sono ebeti felici, allora sono dei formidabili furbacchioni. Questa è la considerazione di Pietro. E poi altri messaggi invece che dicono che effettivamente il reato di clandestinità con queste sanzioni tra 5.000 e 10.000 euro non sono certamente dei deterrenti. Allora, io direi adesso di provare a vedere se riusciamo a collegarci con Las Vegas, ma sembra che ancora non sia possibile con Enrico Pagliarini. Allora, semmai richiamerei Paolo Corazzon, per il meteo, per vedere se con le previsioni riusciamo ad andare anche oltre il fine settimana, visto che si parla di settimane bianche che sono ancora in previsione per molti. Per esempio a febbraio la neve arriva, non arriva, per il momento sì, diceva del maltempo, ma addirittura parlava di una stagione quasi primaverile verso il sud. Beati coloro che abitano da quelle parti. Forse abbiamo raggiunto invece il nostro super tecnologico, veramente la tecnologia nel collegamento funziona poco. Eccomi qua. Oh, Enriquez, scusa, no, prima ti voglio far introdurre, visto meriti almeno un'introduzione con i baffi, sentiamo. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Un uccellino mi ha detto che appunto sei così tecnologico che non funziona il collegamento, o che eri lì con le slot machine, con le ballerine, Las Vegas, eccetera, e ti chiamavano, ma tu non sentivi il telefono. Devo smentire, allora... Una o l'altra giuro, versione, non lo so. Giuro che, allora, alla sera quando si va a cena qui a Las Vegas, molte si beve un po', si alza il gomito. Si fanno nei casinò, perché gli alberghi, ecco, sono alberghi che sono nati attorno ai casinò. Non avevo dubbi. Giuro che io ho camminato... lungo Ramingo, tantissime slot machine, le roulette, tutti i tavoli di blackjack, eccetera, eccetera, non ho tirato fuori un dollaro. Perché ma non quello perché sei tirchio, non per altro. No, vedete che l'ultimo giorno faccio una puntata. non giocarti lo stipendio. Senti, tra l'altro. No, sto preparando le ultimissime cose che vanno in onda tra poco. Tra poco, dopo le 22. Dopo Effetto Notte c'è 2024, dove vi racconterà tutto un putpourri delle cose meravigliose che ha visto in questi giorni. Allora, nel primo giorno ci hai detto di questi schermi di televisori enormi, che bisogna avere un appartamento almeno di 354 metri quadri, penso, no? Per averli così grandi, vero, più no. O meno, di cellulari anche questi straordinari, di cose flessibili. Invece ieri un po' un'operazione nostalgia sui giradischi e Polaroid. Oggi che cos'altro si è visto lì alla fiera di Las Vegas, la Consumer Electronics Show, il CES? Sì, devo dire che è immensa. Penso che ieri ho fatto una, chiamiamola passeggiata, per dire, in una parte che si chiama Eureka Park, e ci sono 500 startup. Comunque una cosa molto interessante di cui parleremo tra poco sono le tecnologie per la moda, sia se noi facciamo riferimento a cose che abbiamo già visto come i braccialetti, gli smartwatch, come ci dicevi ieri, per questo trend, ma anche per i vestiti. C'è stato proprio un evento a cui sono andato, e ci sono le case di moda che sono oramai molto attente a tutti i trend tecnologici, perché visto che i sensori sono così piccoli e si possono inserire ovunque, c'è chi sta pensando di inserire sensori magari per registrare battito cardiaco o quanti passi facciamo in un giorno direttamente nel vestito, così per evitare che uno si debba mettere il braccialetto. Cioè uno si mette la camicia, magari nel bottone c'è il sensore. Ma ci piacciono, queste invenzioni, Enrico? A me mi sembra un po' opprimenti, no? Ma magari che so, 20 anni fa, forse se ti avessero domandato se tutto quello che oggi noi facciamo con lo smartphone si sarebbe avverato, molti avrebbero detto ma figurati, invece poi qui vedi passeggiare, già qui ma anche a Milano e anche in Italia, insomma, vedi passeggiare gente che invece di guardare quello che c'è attorno guarda lo schermo quello senz'altro. Ma scusa, poi quelle camicie, quelle macchine, si possono mettere quel t-shirt dentro la lavatrice dopo senza problemi, poi devono inventare anche la lavatrice che non sciupi l'abbigliamento con i sensori. Ti racconto una cosa molto simpatica, ma che fa capire un po' anche alcuni trend tecnologici. Qui a Las Vegas c'è una lavanderia dove tu non vai fisicamente, non si sa nemmeno dov'è questa lavanderia. Misteriosa. Tu consegni il tuo capo da lavare, o comunque qualsiasi cosa che tu voglia lavare, ad un, si chiamano locker, comunque sono armadietti, e tramite smartphone, tramite internet, dici alla lavanderia: guardate che io nell'armadietto 45 ho lasciato le mie cose. Quando il capo è stato lavato, preparato, stirato, viene riconsegnato in questo armadietto, e quindi tu, sono armadietti che tipicamente sono nei parcheggi dei grandi supermercati, tu ti fermi. Ah, non nella tua stanza d'albergo, lì? Se uno vuole, certo, arriva a una cosa d'albergo, però pensa nelle città, che comodità è, e uno va, questo succede già per le consegne dei prodotti dell'e-commerce, ecco, qui c'è una lavanderia che fa questo ed è sicuramente molto interessante. Che però non la possiamo importare al momento, la importeremo più là. Dici un'ultima novità della quale magari parlerai, perché tu ti vuoi tenere tutto gelosamente poi per 2024, dopo effetto noti. Sì, direi che a questo punto chicca. Non ti dico più niente. No, dai, una piccola chicca per questi 52 secondi. Una piccola chicca, ma allora ci sono, no, allora ti dico qualcosa di cui non parlerò a 2024. Ho visto un cuscino, visto che è sera, lì in Italia, ho visto un cuscino, non l'ho provato perché c'erano 4-5 persone in fila per provarlo, un cuscino antirussamento. C'è un microfono che sente. Ti dice, ma che stai facendo? No, quando russi. No, che vibra, allora il microfono rileva il russamento e c'è all'interno un sistema che vibra e in teoria bisognerebbe provarlo per alcune notti e soprattutto bisognerebbe russare. E allora, Enrico, però siccome ho il sospetto che tu lo faccia, provalo per noi e per tante donne, soprattutto che hanno magari compagni accanto, non solo loro, a volte anche le donne russe, non so. Potrebbe essere utile. Questa è un'invenzione senza essere una cosa straordinaria, però magari, chissà, può aiutare una vita di maggiore qualità. Grazie Enrico Pagliarini, 2024, a poco, dopo ciao. Effetto notte. Ciao, noi ci risentiamo alle 22.